2 novembre, giorno dei morti. Il 2 novembre, per la cultura italiana, è il giorno dei morti. In questo giorno milioni di persone si recano al cimitero per esprimere il loro affetto verso un caro sepolto. E questo perché l'uomo è un essere religioso. Infatti, ogni giorno, in ogni paese, innumerevoli uomini e donne dedicano un po' del loro tempo ad un essere superiore, e si esprimono con parole che diventano preghiere o meditazioni. A conferma che l'uomo sia un essere religioso, vi è una testimonianza universale, presente in tutte le culture e in ogni nazione: i luoghi sacri. Il cimitero costituisce, tra i luoghi sacri, certamente il segnale più evidente della religiosità di un popolo. Perfino gli uomini dell'età della pietra avevano un rispetto per i propri defunti, che andava oltre quello umano. Il modo con il quale seppellivano i loro morti palesa la fede in una vita ultraterrena. Armi e vasi erano collocati vicino al corpo del defunto, in quanto si riteneva che sarebbero stati usati nelle felici zone di caccia dell'aldilà. Anche gli egiziani mettevano accanto al morto frutta e oggetti di cui si serviva in vita, perché non fosse aggravato nel lungo viaggio. L'esistenza dopo la morte è così radicata nella nostra natura che è impossibile eliminarla. Una mia parente, che si era sempre proclamata completamente atea, in punto di morte mi disse che andava a vedere suo figlio che era morto qualche anno prima. Proprio perché il senso dell'eternità è radicato nel cuore dell'uomo, un giorno dei morti si trova in tutte le culture, mentre in Italia i morti vengono ricordati in modo particolare. Il 2 novembre, in Giappone per esempio, vengono visitati particolarmente Aigan, che ricorre 2 volte l'anno nel periodo degli equinozi di primavera e di autunno, e a Obon, che cade a metà estate. Sì, l'uomo si rende conto che la morte non elimina per sempre l'esistenza dell'essere umano, ma questa continua anche nell'oltretomba. Ogni luogo sacro, come il cimitero, diventa un punto di incontro tra la creatura e l'essere supremo. Ogni popolo ha i suoi luoghi sacri. È sufficiente ricordare la città della Mecca per i musulmani, la città di Gerusalemme per gli ebrei, il fiume Gange per gli induisti. In Giappone, nella più piccola isola di Shikoku, vi è una famosa strada che è percorsa da pellegrini, lungo la quale ci si imbatte in almeno 88 templi buddisti. Forse la religione che ha il maggior numero di luoghi sacri è il cattolicesimo romano, che ne ha milioni sparsi per tutto il pianeta. Quasi ogni religione ha avuto il suo fondatore, che per correttezza dovremmo definire riformatore, perché nessuno di loro ha cominciato dal nulla inventando una religione sua propria. Tutti si servirono più o meno dell'opera di altri, ereditarono idee, accettandone alcune, sviluppandone altre. Tutti furono uomini particolari e fecero affermazioni particolari, come ad esempio Maometto, il quale disse di essere l'ultimo profeta di Dio. Ma tra i fondatori di religioni ne spicca uno che visse in un modo inimitabile e fece affermazioni che nessun uomo fece mai: Gesù di Nazareth. Mentre l'esistenza di alcuni fondatori di religioni è messa in dubbio, come per esempio per Lao Tse, il quale, secondo la tradizione, nacque quando aveva già 60 anni ed aveva i capelli bianchi, per Gesù non vi sono problemi storici. Dimostrazione ne sia che questo oscuro falegname ebreo ha spezzato la storia in due. Infatti oggi siamo nel 21° secolo, dell'era che data della sua nascita. Il Galileo Gesù sarebbe rimasto sconosciuto se egli non fosse morto, sepolto e risorto. Per quanto se ne dica, per quanto ci si dibatta per conoscere quale sia la vera religione, una cosa è sicura: i cristiani sono gli unici religiosi al mondo che adorano un Salvatore che non si trova in un cimitero, ma è vivente e salito in cielo. Inoltre, Gesù Cristo ha fatto affermazioni tali da obbligare ogni uomo che le ode a prendere una posizione. O egli era un bugiardo che proclamò di essere ciò che non era, o era un povero illuso, cioè una persona sincera ma squilibrata, oppure ha detto la pura verità. Una cosa è certa: i suoi contemporanei non hanno mai trovato in lui un minimo errore, una contraddizione nel parlare, un minimo torto nei rapporti con gli altri. A dirla in breve, Gesù è stato l'unico uomo e fondatore di una religione ad essere perfetto. E solo la verità è perfetta. Eppure se ci è un uomo che ha subito dell'odio, delle opposizioni, è stato proprio lui. Cosa affermò Gesù di tanto importante da suscitare reazioni così contrastanti? È impossibile in pochi minuti riassumere ciò che egli ha detto, ma oltre ad affermare di essere Dio, disse: «Io sono la via, la verità e la vita». Quindi, nella confusione delle religioni, Gesù si presenta come la verità, cioè come la risposta al problema religioso, come il punto fermo e sicuro a cui guardare, dichiarando falsa ogni altra religione. Era un bugiardo, difficile a dirsi per colui che è conosciuto per i suoi alti valori morali, la cui vita ha confermato la sua etica. Era uno squilibrato, difficile a dirsi perché il suo insegnamento e la sua vita hanno influenzato il mondo. Non rimane allora che concludere che egli fosse veramente ciò che diceva di essere, cioè la via per conoscere il creatore di tutte le cose, la verità per quello che riguarda il presente e il futuro, la vita che è in antitesi al messaggio del cimitero, a tutto ciò che parla di morte, di corruzione, di deterioramento. In conclusione si è definito come la risposta religiosa dell'uomo per questa vita e per quella futura. Ogni religione e popolo ha il proprio Dio. In Egitto vi erano Ammone, il re degli dei, e Aton, dio del sole. I Maya, in America, avevano Tlaloc, il dio della pioggia. I Greci avevano Zeus, il padre degli dei. I Romani avevano Marte, il dio della guerra. Gli Scandinavi avevano Odino, padre degli dei. Le religioni baltiche avevano Dieus, il dio celeste. Ma, col passare dei secoli, questi dei dimostrarono di essere solo un parto della mente umana. Oggi rimangono solo dei vaghi ricordi, sono dei da cimitero. Eppure, milioni di persone hanno posto fede in questi falsi dei, sono stati illusi dalle loro stesse convinzioni. Oggi vi sono altri dei creduti e adorati, anch'essi dei da cimitero. Si guarda con ammirazione alla intensa brama di salvezza del buddismo, alla lotta per l'unione con il divino, nell'ascesi e nella meditazione dell'induismo, all'immersione nell'incomprensibile e all'amore disinteressato del taoismo, ai valori di fede dell'islamismo. Ma questi sono tutti tentativi umani di rappresentarsi una divinità, poiché non si è rivelata essendo inesistente. Chi segue queste religioni è come chi va al cimitero, con la differenza che, mentre in un cimitero si onorano persone veramente esistite, nel cimitero delle religioni ciò che si onora è morto, è inesistente, sono le immaginazioni delle persone, perciò si adora chi o cosa non si è. Anche gli ebrei hanno la loro fede, i luoghi sacri, ma bisogna riconoscerne l'unicità. Innanzitutto, la fede dei giudei risale alla creazione dell'universo, per cui è la più antica delle tre grandi religioni monoteistiche del mondo e la progenitrice del cristianesimo e dell'islam. Al suo centro sta la fede in un solo Dio, Yahweh, creatore dell'universo e dell'uomo, trascendente ed eterno, che vede e conosce ogni cosa, che ha rivelato il suo carattere e la sua volontà al suo popolo mediante i profeti. Il cristianesimo non è altro che una ulteriore rivelazione di questo Dio mediante Gesù, o meglio, l'unica autorivelazione di Dio all'uomo, in Cristo. Chi esamina il cristianesimo si rende conto che i gesti e le parole di Gesù sono sempre completamente diversi da quelli che ci si attenderebbero da un Dio immaginato dall'uomo. Dio si è fatto uomo per farsi conoscere, affinché l'uomo ponga fede non in ciò che egli ritiene bene, ma in ciò che Dio dichiara essere il bene. Essere cristiani significa credere alla rivelazione del Dio vivente come creatore, che si è manifestato tra le creature in forma di servo. È un agire in antitesi rispetto ad ogni altra concezione religiosa o filosofica che sia. Il cristianesimo non è una fede morta, una fede da cimitero, ma una rivelazione quotidiana, una rivelazione vivente. Non solo. Il cristianesimo è una relazione vivente con una persona. E questi, il solo Dio che non occorre cercare, perché egli stesso è andato alla ricerca degli uomini. E poiché è un Dio vivente, egli non può essere trovato in un sepolcro, ma nelle sue parole che sono parole di vita eterna. Gesù disse, in verità vi dico, che sta a significare, io giuro, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna, e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Il messaggio di Cristo parla sì di morte, ma per dichiarare che Lui è la vita. Il cimitero ci ricorda la nostra misera condizione di peccato, il nostro destino come persone, la nostra fragilità. Che tutto passa. Ma la parola di Cristo ti parla di vita, di resurrezione, di un'esistenza dopo la tomba. Il cristiano, sulla base delle affermazioni di Cristo, vive una vita serena e di pace con Dio. Perché mediante la fede in Gesù Cristo il credente ha soddisfatto ogni aspirazione della sua anima e del suo corpo. Perché ha una vita esente dal fare sacrifici per rendersi propizia alla divinità. Una vita di ringraziamento e di lode, con lo sguardo fisso non a una tomba, ma alla resurrezione. I morti vanno onorati, certo, ma vi è stato un morto che è degno di essere onorato due volte, Gesù Cristo. Primo perché è morto per i peccati di tutti gli uomini, anche per i più malvagi. Secondo perché è l'unico ad essere risorto e che si trova alla presenza di Dio. Per questo il 2 novembre, e di conseguenza il cimitero, dovrebbero ricordarci non tanto la morte, ma il bellissimo messaggio che la morte è stata vinta una volta per sempre da Gesù Cristo, e chi pone fede in Lui ha ora la vita eterna. Vita. Questo è in definitiva il messaggio del giorno dei morti. Settembre 1993, Ellero,